Al Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno, mercoledì 20 aprile andrà in scena lo spettacolo La Stanza di Remo e noi siamo qui per parlarne con Stefano Moretti del collettivo Saveria Project. Ciao Stefano e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, ciao, grazie a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora Stefano, diciamo che questo spettacolo teatrale si apre su questa stanza che è anche oggetto di una vostra installazione in realtà aumentata che avete fatto un po' di tempo fa, che si chiama appunto La Stanza di Remo. Ti va di raccontarci chi è questo personaggio? Chi è Remo? Allora guarda, Remo è un personaggio ma è anche una persona, visto che noi scriviamo i nostri testi teatrali a partire dalla realtà, da interviste, da incontri che facciamo, e Remo è un signore che quando l'abbiamo conosciuto aveva 92 anni, era il 2019, viveva e vive in una casa di riposo nella provincia di Bologna, e lo abbiamo incontrato perché lui è stato un partigiano, e non solo un partigiano ma è stato anche un prigioniero politico ed è stato deportato nel campo di concentramento di Bolzano. Peraltro noi quando abbiamo cominciato questo lavoro non sapevamo nemmeno che a Bolzano c'è stato un campo di concentramento nazista, e poi lui è tornato a casa ad Altedo dove ha continuato a vivere una vita assolutamente normale. Quindi la nostra storia ruota attorno alla figura di un uomo, diciamo così, appunto, comune, che però in un momento della sua vita ha deciso di lottare contro il regime fascista, contro le ingiustizie. Questo spettacolo unisce appunto la tematica che raccontavi adesso, no? Della vita di Remo, quindi il tema della resistenza a il movimento dei Black Lives Matter. Ci puoi raccontare come si fondono, diciamo, queste due tematiche all'interno dello spettacolo? Guarda, si fondono, diciamo, tramite la figura di la nostra figura, nel senso che in scena ci saremo noi tre attori, membri del collettivo Saveria Project, cioè Giulia Valenti, Luca Carboni e io che sto parlando, che sono Stefano Moretti, e di fatto noi raccontiamo quello che è avvenuto durante il primo confinamento, durante il lockdown, e quindi quando tutti quanti abbiamo scoperto verso la fine del lockdown che c'è stato l'omicidio di George Floyd, e poi un grande movimento che è avvenuto anche in Italia sulla scorta di quelle manifestazioni che ci sono state negli Stati Uniti e anche a Bologna. E a Bologna c'è stata una grandissima manifestazione, e una delle prime che si poteva di nuovo fare quando si è potuto uscire di casa, e lì abbiamo incontrato l'altra figura, l'altra persona che c'è nel nostro spettacolo, che è Rebecca Comey, che è una ragazza di 22 anni, studentessa di medicina, che non è un'attrice ma è sul palco insieme a noi. Lei è nata a Reggio Emilia da genitori ghanesi e ha iniziato la sua militanza politica, il suo attivismo proprio dopo la morte di George Floyd. E il nostro lavoro verte su questo possibile incontro, cioè il possibile incontro tra una ragazza afrodiscendente di 20 anni, 22, e un partigiano di più di 90 anni che sta in una casa di riposo. E noi stiamo in mezzo, diciamo, noi siamo non solo attori ma siamo anche persone che abbiamo invece 40 anni, quindi anche un pochino di più, e siamo a metà strada generazionalmente, anche mettiamo in discussione la nostra vita e i nostri 20 anni che hanno corrisposto con il 2001, che quindi è il G8 di Genova, un altro momento in cui ci siamo trovati alcuni di noi a dover decidere da che parte stare in qualche modo, no? Certo, uno spettacolo insomma che parla di lotte in varie sfaccettature, ecco, mi verrebbe un po' di riassumerlo così. Sì, e così. Senti, lo spettacolo tra l'altro viene presentato appunto, come dicevamo all'inizio, mercoledì 20 aprile al Teatro Comunale Laura Betti, ed è in prima nazionale, quindi insomma quanta emozione c'è? Ma l'emozione è grande, in realtà anche l'attesa, perché questo spettacolo, come ti dicevo, è nato, l'idea di questo spettacolo è nato già nell'autunno del 2019, quando facevamo le interviste insieme ad Ampi, ed è nata la primissima idea di fare uno spettacolo. Poi abbiamo avuto la fortuna di vincere un bando di sostegno di Emilia Romagna Teatro, che dava un aiuto, insomma, alle compagnie proprio nel momento della ripartenza del Covid, cosiddetta ripartenza, insomma, che poi non c'è molto stato, ma insomma, questo è un altro discorso. L'attesa è lunga, perché noi al Teatro Laura Betti di Casalecchio abbiamo quasi vissuto per certi periodi quando i teatri erano chiusi, e adesso sono passati 2 anni, quindi diciamo che questo spettacolo è anche quasi un documento storico di questi ultimi 2 anni passati. Quindi l'attesa è tanta. siamo molto contenti di debuttare nella nostra città, o quasi, perché noi operiamo a Bologna, e poi di portare questo lavoro a Torino, al Teatro Astra, dal 25 aprile al 30 aprile. Come vedi, le date sono sempre simboliche, sia il 20, 21 aprile, sia il 25. E niente, aggiungo anche il fatto che a Torino ci sarà anche l'installazione di cui tu hai accennato prima, perché è un lavoro parallelo installativo che ci sarà a Torino. Le colgo l'occasione per dirlo, insomma, chi magari da Bologna voglia di fare un giro a Torino in quella settimana. Assolutamente, non si sa mai. Non si sa mai. Certo. Bene, Stefano, io ti ringrazio veramente, insomma, in bocca al lupo per la vostra prima nazionale mercoledì 20 aprile. Ma io ringrazio voi e tutti quelli che ascoltano, invito tutti a venire a vedere, perché appunto è uno spettacolo che chiama in causa tutti quanti noi, in una maniera non per forza, anzi per niente, diciamo, retorica e giudicante, perché siamo noi primi che ci mettiamo in discussione, quindi invito veramente tutte e tutti a venire a vedere questo lavoro. Grazie ancora, Stefano. Va bene, grazie, ciao.